Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Ve l'avevo promesso, vi avevo promesso che avremmo riparlato dei libri gialli, soprattutto in questo periodo, anche se di fine estate, e vi avevo promesso che avremmo ospitato nuovamente a Radio 24 Luca Crovi. Io lo definisco sempre un po' l'espertissimo del mondo del noir, del thriller e del giallo. Tra l'altro è suo il volume Noir, istruzioni per l'uso, un atlante del delitto che si legge come un thriller, pubblicato da Garzanti. È un libro interessante perché parla di tantissimi appunto giallisti, sia del passato che contemporanei, e per ognuno di loro si racconta un aneddoto, una parte di chiacchierata, di intervista che lo stesso Crovi ha fatto. Insomma, si scoprono veramente tante curiosità sui giallisti italiani e stranieri. Allora Luca, bentornato innanzitutto a Radio 24, così per parlare di gialli. Era una promessa che ci eravamo fatti. Beh, ma l'assassino torna sempre sul luogo del delitto, è un classico. Te l'ho servita sul piatto d'argento questo, devo dire, te l'ho veramente servita su un piatto d'argento. Oggi partirei dagli stranieri, così io ti faccio dei nomi. E io cerco di rispondere con le cuffie come se fossimo a rischia tutto. Esattamente, come tanto tu, io posso chiamarlo anche Wiki Crovi, perché lui praticamente è il Wikipedia di tutto il mondo giallo, noir e thriller che dicevamo. Allora, mi piacerebbe partire con Joe Lansdale. È difficile dare una definizione di Joe Lansdale perché lui è sia uno scrittore, ma ha scritto veramente di qualsiasi genere: noir, horror, western, fumetti, sceneggiature. È un americano, anzi lui preferisce definirsi texano, perché c'è una bella differenza fra l'essere texani e l'essere americani. E l'ultimo libro che lui ha pubblicato in Italia, che è stato pubblicato in Italia, è Notizie dalle tenebre. È una raccolta di 16 racconti pubblicati da Einaudi, che erano già stati pubblicati, quindi in realtà sono stati radunati in un erano uscite in tante antologie. Cioè, devi tenere presente che lui ha pubblicato moltissime antologie negli Stati Uniti. In Italia ne ha composte di diverse, scegliendo proprio il gusto degli italiani e mescolando sia la narrativa di avventura che quella noir che quella western. È un libro che secondo me ha almeno due novel fantastiche, perché la caratteristica di Lansdale è che lui, spesso più che non un romanzo lungo, scrive delle lunghe novelle, e due di quelle che secondo me non potete perdere dentro a questa antologia Einaudi sono una, quella che si chiama Bubba Hotep, dalla quale è stato tratto anche un film di Don Coscarelli, e l'altra invece è quella che è uno spin-off delle avventure di Huckberry Finn, nel senso che lui si è divertito a prendere i personaggi inventati da Twain e rimetterli praticamente in una situazione alla Lovecraft. Ci ha messo le creature che arrivano dall'inferno, che cercano di attaccare Tom Sawyer, che cerca di andare a recuperare il suo amico, e contemporaneamente ci ha messo delle leggende che vengono dalla capanna dello zio Tom. E questo appunto è uno dei racconti contenuti in questa raccolta Notizie dalle tenebre, pubblicata da Einaudi. Quando ci siamo incontrati con Joe Lansdale, gli ho chiesto innanzitutto con che criterio ha scelto questi 16 racconti, perché ha messo insieme proprio questi. Sentiamo cosa ci ha detto. What happened is that my editor, Luca Briasco, he and I got together and we said... Sì, con il mio editor, che Luca Briasco, abbiamo deciso di mettere assieme dei racconti per un libro da pubblicare in Italia. All'inizio avevamo pensato addirittura a un centinaio e poi il numero è addirittura salito, ma alla fine, dato che era veramente troppo difficile per me scegliere, ho lasciato la scelta a lui. Nell'introduzione io cerco di dare una visione generale dei racconti, cerco di spiegarne i tratti comuni, ma cerco anche di gettare uno sguardo su la varietà dei racconti, che sono molto diversi tra di loro, e quindi le peculiarità di ognuno di loro. And the different kinds of stories, so that it didn't, you know, wasn't all one note, so to speak. Si tratta di racconti piuttosto lunghi, insomma sono una cinquantina a volte di pagine ciascuno. Ricordiamo tra l'altro che Luca Briasco è il traduttore di questi racconti. All'inizio della tua prefazione scrivi: breve e gustoso, teso e liscio come l'olio, così deve essere un racconto, o almeno nella maggior parte dei casi. Che rapporto tu hai con i racconti? Ne hai scritti più di 200 in vita tua. Che differenza c'è per te? Quando è che decidi che un soggetto è giusto per un racconto e quando per un romanzo? Short stories are what I first started selling, and they're what I've always loved. Il mio rapporto con i racconti sono un genere letterario che io amo molto. Io nasco come romanziere, però io penso che ho letto moltissimi racconti nella mia vita in generale, e pensavo che ci fosse un buon mercato per questo tipo di genere letterario, anche perché io amo molti racconti perché ti permettono di differenziare molto la tua narrazione, di passare da un'idea all'altra e di non fermarsi 6 mesi su una storia, e ti permettono di essere molto flessibile, infatti. E poi mi rifaccio molto alla tradizione americana del racconto, che è una tradizione comunque abbastanza radicata. Per quanto riguarda invece la decisione di inserire un personaggio in un racconto piuttosto che in un romanzo lungo, diciamo, lo so dall'inizio. Non c'è un processo di scelta elaborato, quantomeno non è un processo di scelta cosciente. Sicuramente il mio subconscio lavora in qualche modo, però a me è sconosciuto. But I'm not aware of it. It just happens. When I sit down, I generally know. Quando ti si incontra vis-à-vis, insomma, hai la faccia simpatica, sei un uomo solare. Io l'ho scritto anche su Twitter questa cosa. John Lansdale è un uomo solare che scrive di tenebre. Dove le vai a pescare queste tenebre? È il tuo lato scuro, The Dark Side of the Moon? Well, I think io penso che sia tutta finzione, quindi forse anche parte del mio sorrisolo. Da dove vengono le idee, scherzi a parte, per appunto dei soggetti a volte veramente neri? I think a lot of that is growing up in East Texas, which is. Provengo dalla parte orientale del Texas, nello specifico, che è una zona particolare anche dal punto di vista naturalistico, una zona più scura rispetto al resto del Texas, perché ci sono molti boschi, sono molti alberi, sono molte paludi, ci sono molti serpenti, alligatori. Quindi, in un certo senso, l'atmosfera, la geografia ha condizionato lo scrittore e la sua produzione. E quindi, addirittura, forse questa atmosfera così oscura di questa parte del Texas potrebbe essere una metafora per le tenebre che scrivo, non lo so. Bello questo accento texano di John Lansdale, ogni volta che parla veramente mi diverte moltissimo. No, tra l'altro è difficilissimo tradurlo, nel sì. senso che ha le parole appiccicate, lui ride molto ed è molto simpatico, quindi per il traduttore o parli quella parlata texano o è complicato. Okay. Tra l'altro lui ha nelle vene, ed è una cosa che secondo me ritorna anche nelle sue storie, del sangue indiano, nativo, e i suoi nonni ebbero la possibilità non solo di essere contaminati, no? dai nativi americani, ma di vedere anche gli ultimi eventi del Far West, per cui il West ritorna spesso nelle sue storie, e queste cose che lui diceva sulla palude, gli alligatori, eccetera, tornano sempre nei suoi libri. In più lui ha dei vicini di casa che parlano esattamente come voi sentite parlare alcuni suoi personaggi, per cui molti dei personaggi che noi pensiamo essere inventati in realtà sono sono presi dalla realtà. E a proposito invece del discorso dei racconti sulla lunghezza, allora io ho fatto un giorno una sfida con lui e gli ho detto: senti, mi devi scrivere il racconto più breve che tu hai mai scritto di fantascienza in assoluta, e lui me l'ha regalato ed è finito dentro al mio noir istruzioni per l'uso. Ve lo leggo perché sono esattamente 2 righe. Il giorno dopo lo scoppio della bomba non era sopravvissuto nessuno, a parte i gemelli siamesi. Il terzo giorno dopo lo scoppio della bomba uno dei 2 gemelli morì. The end. Se non l'avete capita, ve la spiega poi la tedesca. Che devi ancora riflettere su questo. Allora, gemelli siamesi, è abbastanza facile. Ah, giusto, certo. Quindi sapete che cosa può essere finito alla fine del racconto. C'è sempre qualcosa di tragico, di traumatico che lui racconta. Sì, c'è sempre qualcosa anche di veramente molto cupo. Molto... Sì, poi lui usa dei personaggi spaventosi come l'uomo capra, usa i fantasmi. Sì, ha un'immaginazione piuttosto nera. Se lui deve nera. Raccontare, per esempio, dentro questa antologia, cosa succede a una famiglia che va in roulotte vicino al mare, racconta che vengono sacrificati sullo scoglio alle creature che vivono nel mare. Tra le creature spaventose, io soprattutto vi avviso, attenzione al dio del rasoio, che è protagonista di uno dei racconti, perché nessuno di voi lo vorrebbe in casa, come nessuno di voi vorrebbe l'uomo pieghevole portato da queste suore nere dentro una macchina, e soprattutto se le vedete arrivare verso casa vostra, cominciate a preoccuparvi. Da Joe Lansdale passiamo ad un altro giallista americano, insomma, famosissimo, anzi scrive più polizieschi forse che più di gialli, Don Winslow. Don Winslow, ogni volta che io chiacchiero, parlo con qualche noirista italiano e chiedo: beh, qual è il libro che ti ha ispirato, qual è il tuo libro preferito? Tutti nominano Il potere del cane di Don Winslow. Perché secondo te? Perché è uno dei libri che racconta meglio il mondo del narcotraffico tra gli Stati Uniti e il Messico. Lo racconta basandosi anche su eventi di cronaca, ma dà voce a personaggi criminali che potrebbero essere i nostri vicini di casa, se noi vivessimo là. In più, la capacità di Wislow di utilizzare un linguaggio secco, diretto, porta gli autori italiani a voler scrivere in quel modo. Quando è stato tradotto I Selvaggi, dal quale poi ha fatto il film Oliver Stone, Alfredo Colitto, che lo ha tradotto, ha dovuto trovare un linguaggio essenziale, perché magari un protagonista si esprimeva in sole tre parole. Dovete sapere che a me mi ha confessato una cosa molto divertente. Lui da bambino giocava spesso a poker con sua nonna, ma sua nonna non era una nonna normale. Sua nonna era una giocatrice d'azzardo, in più era una signora che andava a recuperare nelle bische clandestine i soldi da questi scommettitori di colore. Questi soldi non se li teneva tutti per lei, li portava a un politico americano e per evitare di essere in qualche modo derubata girava con la pistola nel reggicalze. Arrivava a casa con questa mazzetta di soldi che poi doveva ridistribuire e chiedeva al piccolo Don se voleva giocare la partita a poker. E là, quello che c'era in palio era questo: se Don vinceva la partita, il suo giocattolo restava integro, se invece la perdeva, la nonna prendeva il giocattolo e glielo spaccava. Ecco, 20 anni di analisi, credo, sì, Don sì. Wislow su questa cosa. Però lui dice di essere stato molto affezionato alla nonna. E forse è stato appunto anche ispirato da questo personaggio. Sicuramente uno dei romanzi più famosi di Don Wislow e le belve. E tra l'altro proprio l'ultimo romanzo pubblicato in Italia, ossia I Re del Mondo, è una sorta di prequel delle belve. Cioè vediamo gli stessi personaggi prima che accadano una serie di cose. Anche in questo caso il romanzo è pubblicato da Einaudi. In quell'occasione, 2012, Marta Cagnola appunto aveva incontrato Don Wislow e l'aveva intervistato sui Re del Mondo. I just wasn't done with them. I wasn't ready to say goodbye. Non è per il successo delle belve che ho deciso di scrivere un prequel. È che non avevo ancora finito con questi personaggi. Non ero ancora pronto a dirgli addio. Le loro storie le avevo in testa fin da quando avevo scritto Le Belve, ma con Le Belve volevo entrare subito nell'azione, scrivere un libro con un ritmo veloce. In I Re del Mondo mi sono preso più tempo di riflessione. In Kings of Cole, I wanted to write a more reflective story, a little bit about history. Come è nata l'idea di questi personaggi? Si è ispirato a persone vere? Dove è nata l'ispirazione? Very much out of reality. Li ho presi dalla realtà, come faccio sempre. I miei editor di New York, che non riuscivano a vedere al di là del proprio naso, dicevano che questi personaggi non erano credibili. Io gli ho detto, facciamo una scommessa. Prendete un aereo e venite a San Diego e se entro 45 minuti non incontrate della gente così, avete vinto voi. Ma ho vinto io. Ho fatto surf, vado in spiaggia, ho fatto arti marziali con queste persone, le conosco bene. E questo era Don Wislow, l'avete sentito, intervistato da Marta Cagnola, in questo caso parlava dei I Re del Mondo, prequel delle belve. Luca, passiamo un po' di noiristi italiani. Massimo Carlotto, per esempio, per Radio 24, insomma, è un amico, in qualsiasi cosa pubblica lui viene comunque ospite qui, parliamo dei suoi libri, a me devo dire è uno scrittore che piace molto. È un autore che continua a reinventarsi. Ogni volta che Massimo Carlotto scrive un libro, fa una sfida con se stesso. Tenete presente che in genere lui fa delle inchieste sulla criminalità e quello che lui ha trovato nelle inchieste poi lo inserisce nei romanzi. Lo fa diventare romanzo. Infatti c'è un grande lavoro di documentazione. Mi ricordo Respiro Corto, per esempio, che era ambientato a Marsiglia e c'era la criminalità internazionale, soprattutto a livello finanziario. Lui effettivamente aveva passato del tempo a Marsiglia si era documentato parecchio. O pensate a Perdas de Fogu, che racconta tutto quello che era il poligono di tiro di Aguirra, dove c'erano le sperimentazioni sulle armi, no? Che Sardegna, portavano sì. alla contaminazione in tutta quella zona. E secondo me la grande capacità di Carlotto è di entrare nella pelle dei personaggi e soprattutto di non aver scelto in tutti questi anni un solo protagonista, nel senso che voi potete Abbiamo pensare all'alligatore, naturalmente, che è il suo personaggio seriale, ma potete pensare anche a Pellegrini, insomma, al protagonista protagonista di Arrivederci Amore Ciao, che comunque è ritornato e ritornerà. Possiamo persino anticiparvi, visto che Carlotto lo ha raccontato, che Pellegrini e l'Allegatore si troveranno in un romanzo insieme. Però ogni volta che lui può aggiungere personaggi, lui sostiene di avere la possibilità di avere un teatro più grande e quindi di poter meglio raccontare la sua narrativa, che secondo me è divertente, perché ogni volta è come cambiare pelle, quindi ogni volta è una porta che lui apre sull'immaginario. E di Massimo Carlotto oggi parliamo di un romanzo breve, racconto lungo, insomma fate un po' voi, che si intitola Il mondo non mi deve nulla, è l'ultimo che ha pubblicato per EO. È un piccolo gioiellino, insomma, una commedia nera, potremmo definirla così. I protagonisti sono due, c'è Adelmo, che è una sorta di ladro per necessità, e poi c'è una donna misteriosa e affascinante. Ecco come li descrive Carlotto. Adelmo è un uomo sconfitto alla vita, nel senso che aveva un'idea molto certa della propria esistenza, poi è arrivata la crisi e la sua vita è saltata completamente, quindi anche le sue certezze, e si ritrova a fare il ladro per necessità, ma si vergogna di fare il ladro perché lui in realtà ama molto il lavoro, vorrebbe usufruire della dignità del lavoro e quindi della dignità della vita, e quindi è un ladro molto particolare. Poi è assolutamente incapace dal punto di vista criminale, è proprio un disastro. Ed è un uomo che va alla ricerca anche di se stesso e di una scappatoia, di una vita che non gli piace per niente. Ha questo rapporto con la Carlina, che è la sua signora, che è una signora molto complicata, difficile, giustamente, anche perché è una donna molto spaventata dal futuro. Per cui si arrabatta e finché non vede questa finestra aperta. E da quella finestra aperta inizierà, insomma, tutta praticamente la storia contenuta in questo romanzo, perché Adelmo entra in questa casa con l'idea di compiere un furto e qui incontra una donna che, personaggio secondo me bellissimo, il personaggio principale potremmo dire di questo romanzo, una donna affascinante, insolita, strana, che sembra avere una serie di segreti, ma forse proprio questo è il suo fascino. Lui entra, si capisce che insomma è un ladro, e lei che reazione ha? Lei è distesa sul divano, il suo divano, dove passa molto del suo tempo, accende la luce e chiede ad Adelmo se è un ladro oppure un inquilino molto distratto, e già si capisce qual è che tipo di personaggio. Lei è Elisa, un'ex croupier tedesca che ha scelto Rimini per trascorrere la pensione, è un personaggio molto pignolo, ostinato, con delle grandi certezze nella vita, che però anche lei ha subito in qualche modo la devastazione della crisi, perché è rimasta fregata dai derivati e quindi ha perso tutto quello che aveva risparmiato in una vita. Insomma, una commedia nera sulla crisi, questa di Massimo Carlotto, Il mondo non mi deve nulla, pubblicato da EO. A proposito di altri giallisti, thrilleristi, definiamoli così, italiani, vorrei dedicare uno spazio a Giorgio Faletti. Giorgio Faletti, lo sappiamo, purtroppo è scomparso quest'anno, il 4 luglio, a 63 anni. Io uccido, il suo primo proprio thriller, definiamolo così, quasi uno stile americano, aveva venduto più di 4 milioni di copie. Poi c'erano stati altri romanzi di grande successo popolare, Niente di vero tranne gli occhi, Fuori da un evidente destino, Io sono Dio, Appunti di un venditore di donne, erano stati tutti pubblicati da Baldini Castoldi Dalai, poi l'ultimo, Tre atti e due tempi, pubblicato da Einaudi. Tu, Luca Crovi, cosa pensi di Faletti giallista? Ma io vorrei raccontarvi un paio di aneddoti. Allora, uno, la vita editoriale di Giorgio Faletti non è stata facile all'inizio, infatti. Nel senso che lui aveva bussato a tantissime porte e tutti gli avevano detto che non volevano un thriller, non volevano un thriller ambientato a Monte Carlo, non volevano un thriller scritto dal comico, tanto che prima di arrivare da Baldini e Castoldi lui fece un lungo giro di letture. E la cosa vera è che il successo non è arrivato facile, è arrivato solo quando Giorgio è finito in ospedale. Allora io vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori che Giorgio Faletti, il giorno della presentazione del lancio di Io uccido, era in coma. Lo so. Aveva avuto un ictus. Sì. Lo so perché dovevo presentarlo io. La presentazione doveva essere a Piacenza. Qualche settimana dopo, mentre Faletti è ricoverato in ospedale, Don Ricco lo lancia come il più grande scrittore italiano vivente. Don Ricco, diciamo, critico letterario. Critico letterario che su 7 ne parla. Allora, questa cosa ovviamente ha creato un grosso impatto emozionale nei confronti del libro per i lettori. Poi il libro ha fatto la strada sua perché era un thriller forte, no? Di forte impatto emozionale. E per gli ascoltatori di Radio 24 vorrei ricordare che qua davanti noi ci troviamo il Derby, no? Che è uno... perché la sede di Radio 24 a Milano, appunto in via Monterosa, di fronte allo storico locale Derby. Di fronte Derby, allo storico ex locale Derby, dove Faletti si fece le ossa come comico, e che Faletti ha raccontato dentro a un suo libro molto bello che si chiama Appunti di un venditore di donne. Io credo che quando uscirà il nuovo romanzo inedito di Faletti, che è previsto in autunno, probabilmente sarà capace ancora di stupirci, perché una delle caratteristiche di Giorgio è stata quella ogni volta di reinventarsi, di non fermarsi e di non restare sullo stesso piedistallo sicuro. Quindi anch'io sono molto curioso di leggere cosa ci ha lasciato ancora lì. Sentiamo invece come nasceva in Giorgio Faletti l'idea di una trama, di un romanzo. Questa è un'intervista che avevamo realizzato qualche anno fa al Salone del Libro di Torino. Se devo dare un esempio, esemplificare, per me mi trovo in mano una matassa di filo intricatissima e molto piccola. E quella è l'idea. E poi poco per volta, districando, e mi trovo una linea che va da un punto A a un punto finale, e quella è la trama del romanzo. Solo a quel punto lì comincio a scrivere e a mettere nero su bianco quello che è la trama che ho ideato. Ma è tutto chiaro dall'inizio, o poi i personaggi con il passare del tempo, della storia, prendono un po' il sopravvento e cambiano magari la tua idea iniziale? Questo succede sovente, perché uno se trova qualcosa di meglio, mettiamola così con una battuta, se uno va a cercare delle patate e trova dei tartufi, non è che li lascia lì, ma che, capisci, li raccoglie. E allora se tu trovi qualcosa di meglio in corso d'opera, è, come si dice, è grasso che colla, e non c'è nessun problema, nessun disonore a cambiare idea durante il percorso. Il tuo romanzo d'esordio, Io uccido, ha venduto più di 4 milioni di copie, più o meno sugli stessi livelli gli altri romanzi. Ti è venuta un po' l'ansia da prestazione? Insomma, ormai si aspetta l'uscita del tuo romanzo come se si aspettasse Harry Potter o comunque qualsiasi altro mega seller. Ma è giusto che un autore che è amato dal pubblico, un briciolo di ansia della prestazione se la faccia venire, in senso giusto e non immotivato, cioè cercare di dare ai propri lettori qualcosa che giustifichi il fatto che i lettori continuino nel tempo ad amarti. Domanda flash per chiudere, Luca Crovi. Leggendo il tuo noir Istruzioni per l'uso, ho scoperto una cosa che mi ha fatto veramente sorridere, che non sapevo, e che il famosissimo, amatissimo Stieg Larsson, Uomini che odiano le donne, insomma, e così via, ha preso spunto per il suo personaggio femminile, per Lisbeth Salander, niente poco di meno che dal personaggio di Pippi Calzelunghe. Allora, spiegami qual è il legame. Va bene i sei gradi di separazione, ma fra Pippi Calzelunghe e Lisbeth Salander lui aveva fatto una scommessa con un suo amico, che era questa: se io inventerò un'eroina, un personaggio che farà parte della storia del noir, non può che essere Pippi Calzelunghe cresciuta. Allora cosa ha fatto? Ha pensato a un personaggio che fosse sociopatico, che fosse stato allevato da altre persone, che avesse una persona che la tutelasse negativa. Quindi l'ha portata fuori da Villa Colle, dove vive tranquillamente la nostra Pippi Calzelunghe, le ha tolto il cavallo, le ha tolto la scimmietta e le ha messa in una situazione di pericolo. Se voi leggete il romanzo, ci sono dei punti in cui la protagonista si esprime come Pippi Calzelunghe. Il suo numero di cellulare, se voi lo digitate seguendo i numeri e abbinandole le parole, fa la parola Pippi. In più, se andate sul numero del citofono che viene descritto dove vive Lisbeth Salander, c'è scritto Villa Colle. Grazie a Luca Crovi per averci dato anche questa chicca, insomma, su Stieg Larsson. Ricordiamo il suo libro Noir Istruzioni per l'uso, un atlante del delitto che si legge come un thriller, pubblicato da Garzanti. Grazie in regia a Filippo Auregi, ed è tutto anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri, dedicata ai gialli, ai thriller e ai noir. Vi ricordo che, come sempre, mi trovate su Twitter come come alle teddine e tutte le puntate d'archivio su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.